e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Autunno, tempo di castagne e di castagnate. Forse qualcuno di voi si starà organizzando per il weekend, ma come la saggezza popolare insegna, quando si raccolgono le castagne perdiamo i capelli. Non è il gesto in sé, no? Naturalmente, Deborah, ma l'autunno, lo sappiamo, sì, è un momento un po' critico per le nostre chiome. Non è una novità, ma il tema è di grande attualità, perché proprio in questo periodo dell'anno che notiamo più capelli sul lavandino, nel piano della doccia, li vediamo spenti, più sottili, difficili da pettinare, insomma in mille modi i nostri capelli ci fanno capire il loro malessere. Oggi è tornato a trovarci il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo e presidente della Fondazione Internazionale di Ricerca Tricologica, con cui parleremo della perdita autunnale dei nostri capelli, che è fisiologica, ma se il problema persiste occorre vederci chiaro e consultare uno specialista, cioè il dermatologo, per ricevere una diagnosi e quindi le cure adeguate. La puntata di oggi ha proprio l'obiettivo di fare chiarezza sulle notizie anche che sono circolate in questi ultimi giorni sull'efficacia di alcune molecole che venivano, no, lanciate come la cura definitiva della calvizie. Cercheremo di leggere la notizia, di vederci più chiara. Le novità indubbiamente non mancano, ma alcune sono buone e utilizzabili, altre al momento sono solo sperimentali. È opportuno fare questa differenza per non accendere false aspettative. 800 24 00 24 se volete iniziare a prenotare i vostri interventi. Allora, nella parte di denari faremo chiarezza sulle ultime notizie che riguardano un argomento di grande, grandissima attualità. È il tema principale di cui si parla sui giornali proprio negli ultimi due giorni. Ci riferiamo alla sciagura aerea avvenuta nel Sinai, lo schianto dell'Airbus della russa Metrojet con 224 persone a bordo, decollato da Sharm el Sheikh, che ha acceso l'allerta terrorismo in tutta Europa. Allora, perché ne parliamo? Lo sapete, la Gran Bretagna ha chiesto alle sue compagnie aeree di sospendere i voli. EasyJet, Thomson Airways, Thomas Cook e British Airways hanno cancellato tutti i voli da e per la città egiziana. Per quanto riguarda EasyJet, anche quelli in partenza da Milano. E cominceranno proprio da oggi a riportare in patria i circa 20.000 turisti del Regno Unito bloccati a Sharm. Ma anche Lufthansa, Air France KLM, Emirates, Air Arabia, Fly Dubai hanno deciso di sospendere la rotta sul Sinai. Ucraina, Olanda e Irlanda hanno bloccato i voli delle proprie compagnie. Alcuni paesi, fra cui l'Italia, hanno deciso di non sospendere formalmente i voli per Sharm fino a quando almeno non saranno comunicati i dati definitivi dell'inchiesta sul disastro dell'aereo russo. Allora, noi oggi a Cuore Denari osserviamo quanto avviene dal nostro punto di vista, quello dei consumatori. Cosa succede a chi aveva già prenotato dei voli per queste destinazioni e se li vede annullati, a chi aveva progettato ad esempio le sue vacanze di Natale in quella zona e adesso si è spaventato e vorrebbe cancellare tutto, come può comportarsi chi non subisce annullamenti ma decide di non voler più partire per Sharm. Ne parleremo con i nostri esperti a partire dalle 11.15. Allora, prima di affrontare il tema di cuore, parliamo infatti oggi di capelli, voglio darvi aprire con una buona notizia. Nel Regno Unito una bambina di un anno, malata di una forma di leucemia, che è il cancro del sangue, incurabile, particolarmente aggressiva e che i medici avevano dato per spacciata, è stata del tutto curata, primo caso al mondo, grazie ad un'innovativa terapia genetica cellulare. Ne vogliamo parlare con il professor Andrea Biondi, che saluta in linea con noi. Professore, grazie. Buongiorno e grazie a voi. Per commentare con noi questa buona notizia fresca fresca di stampa, il professor Biondi è direttore della clinica pediatrica all'Università di Milano Bicocca e centro di riferimento per la cura di leucemie e malattie del sangue del bambino e dell'adolescente. Professor Biondi, allora, primo caso al mondo, la bambina di un anno è stata curata definitivamente, la sua era una forma di leucemia particolarmente aggressiva, i medici non le davano speranze. Invece, grazie proprio a questa terapia innovativa, la bambina adesso è guarita. Ci aiuta a leggere e a commentare questa notizia, che naturalmente accende le speranze dei genitori che hanno bambini affetti da leucemia? La notizia è ovviamente molto importante, anche se devo dire nuova, perché riguarda una delle esplosioni che c'è stata dalla fine del 2013-2014 circa l'applicazione delle seguenti tecniche, che armare le cellule del sistema immunitario, quindi i linfociti, con dei bazooka che riconoscono la cellula malata con la propria antenna, e poi hanno una coda che ovviamente li collega, l'antenna, alla cellula che funge da killer quando viene messa vicino alla cellula malata. Questa è ovviamente tecnica che si chiama CAR, e CAR sta per Chimeric Antigen Receptor, significa produrre con l'ingegneria genetica una molecola artificiale che ha queste proprietà. Ovviamente nel caso specifico l'originalità sta nel modo in cui questa molecola è stata fatta esprimere dalle cellule killer, quindi in questo senso c'è l'aspetto di novità, ma l'utilizzo dei CAR, che è partito dalla fine del 2013 dal Children's Hospital di Philadelphia e poi si è esteso a diversi centri negli Stati Uniti, rappresenta certamente una strategia innovativa. Anche in Europa, e questo ovviamente è il primo caso che viene descritto, questo si realizzerà e ci saranno centri a partire probabilmente dalla fine di quest'anno, inizio del prossimo anno, tra cui in Italia il nostro centro, che sarà ovviamente parte di uno studio internazionale, e ci auguriamo che nel prossimo anno questo possa diventare più accessibile anche a bambini e adolescenti, non solo in Italia, in Europa, perché comunque questo caso è il primo bambino che non ha dovuto attraversare l'oceano per farsi curare. Stiamo ancora parlando di terapie sperimentali, ma come ho descritto, di grande speranza, perché innovative nel fatto dell'idea stessa di armare delle cellule del sistema immunitario con quello che mi permette di raggiungere il bersaglio che voglio eliminare. Professor Biondi, allora noi la ringraziamo per aver commentato in tempo reale con noi questa notizia, averci spiegato esattamente il meccanismo di queste terapie che individuano le cellule e le bersagliano, quindi. Bravissima. Questo è e soprattutto io le sono grata per aver così aggiornato e dato anche un messaggio ai genitori dei bambini che soffrono di queste malattie. Ci saranno dei centri dedicati anche qua in Italia, anche qui in Europa, quindi la ricerca va avanti, e come sempre quando diciamo che bisogna continuare ad avere fiducia e investire nella ricerca, i risultati arrivano, e questa è una dimostrazione. Professor Biondi, grazie piacere. Anche per il suo impegno. Ricordo che il professor Biondi è direttore della clinica pediatrica all'Università di Milano Bicocca e del centro di riferimento per la cura di leucemie e malattie del sangue del bambino e dell'adolescente. Grazie professore. Buona giornata, grazie a voi. Buona giornata. Allora, adesso cambiamo decisamente argomento. Intanto salutiamo il nostro esperto, il dottor Fabio Rinaldi, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo ad occuparci delle nostre chiome, parliamo dei capelli. Fanno due cose, dottor Rinaldi, come lei mi dice sempre. Crescono, no? Nascono e cadono. Ecco, sì. Di lì, ecco, lo fanno continuamente, indipendentemente dai nostri desideri, incuranti della nostra preoccupazione o disappunto. Allora, proviamo a invitare i nostri ascoltatori a fare un bilancio un po' della loro chioma, no? Quali sono le indicazioni utili? Perché quando parliamo di caduta dei capelli, facciamo di ogni erba un fascio. Invece ci sono dei suggerimenti, lei oggi potrebbe aiutarci a fare una sorta di autovalutazione delle nostre chiome per non farci prendere dall'affanno, ma al tempo stesso per non trascurare dei segnali importanti. Allora, da che cosa iniziamo, dottor Rinaldi? Scusate, iniziamo dal fatto che i capelli nascono, crescono, sono fatti così, sono uno degli organi più complicati del corpo umano, peraltro, quindi hanno il loro ciclo, e allora capita che cascano raccogliendo le castagne, forse sì. Piegandosi. Quello non che so. Dicevo, e quindi, non è il gesto. Appunto, vabbè, però cascano, poi si fermano anche, quindi sì. Se i capelli stanno bene e se il corpo sta bene non c'è problema. Io anche settimana scorsa ho organizzato proprio un piccolo congresso per dermatologi chiamandola tricologia internistica, però per dire, i capelli cascano, ma ogni tanto la caduta dei capelli ci indica che c'è qualcosa che non va. Uh-huh. E allora magari proprio dalla caduta dei capelli, al di là della banalità dell'estetica, in un sì. certo senso, quindi scusi se cambiamo, abbiamo appena commentato una magnifica e importante notizia, ma anche questo vuol dire che magari dalla caduta dei capelli capiamo che c'è qualche cosa da sistemare, e c'è qualcosa da sistemare per il corpo. È come se una spia si accendesse e ci dicesse che allora, se i capelli cascano tanti, ne cascano 50, 100 in un giorno, cominciano, se uno ha tanti capelli ovviamente, cominciano ad essere un po' tantini, ma se nell'arco di una ventina di giorni si fermano, tutto bene. Oltre al numero dei capelli, voi parlate di 50-100 capelli, sì, no? Al meno, giorno, sì. Adesso uno non è che si può mettere, devo raccontare i capelli. Molti, no, li esatto. eccetera. Molti li contano, però. Ecco, andiamo al secondo indizio. Qual è l'altro aspetto che dobbiamo valutare? L'aspetto altrettanto importante è che magari non cascano tanto, quindi ne vedo 5 al giorno, 10 al giorno, ma diventano sempre più fini, sì. quindi cambiano proprio, diventano come dire elettrici, sparano un po'. Questo è un sintomo ancora ogni tanto. Ancora più importante della caduta, perché vuole dire che questo capello sta a poco morendo. È una pianta che non ci fa più i fiori belli, ma diventa sempre più brutta, sempre più secchina, e questo è un altro sintomo al di là della caduta. Allora, occhio al numero, occhio anche alla dimensione del capello, che non deve diventare troppo sottile. Quale altro indizio dobbiamo raccogliere? Uno che è a volte non riconosciuto, a volte proprio dai medici, ma le persone lo sentono, è che è una cosa che in termini medici si chiama tricodinia, che è il dolore del cuoio capelluto, che non è un dolore, ma che è magari una sensazione o di prurito intenso o di bruciore, o come se si tirassero i capelli. Questo è un sintomo fondamentale, è un sintomo che vuole dire che c'è un'infiammazione sotto, e allora anche qui innesca un tipo di problemi di caduta di capelli. Ha consigli differenti, dottor Rinaldi, per uomini e donne? Perché la perdita, la caduta è democratica, interessa uomini e donne, ma si presenta in modo diverso e potrebbe avere anche cause diverse. Mi rifaccio un po' alla sua indicazione, che la salute dei capelli è un po' lo specchio della salute del nostro organismo, e quindi immagino ci siano dei momenti anche differenti. Penso alla donna dopo la gravidanza, che solitamente lamenta, no? dei capelli più sottili, più difficili da pettinare. Sì, assolutamente, è democratico, ma differenzia un po' le patologie. L'80% degli uomini ha la normale calvizie androgenetica e poco più nel 3-4%, in realtà molti di più forse, ma non si conoscono, delle forme di alopecia areata, che peraltro sono delle malattie che si chiamano autoimmuni, quindi legate a un problema immunologico. Nelle donne c'è un problema in più, perché spesso ci sono delle condizioni ormonali o metaboliche che danno delle cadute ulteriori, e quindi nella parte democratica della caduta le donne ne hanno un po' di più. E poi ci sono anche dei segni differenti di caduta. Gli uomini si stempiano, diventano la fronte molto alta, mentre le donne hanno una perdita che si presenta in modo differente, sì, sbaglio? Sì. Già dalla forma ci si può orientare. Allora, obiettivo della puntata di oggi è soprattutto illustrarvi le novità per il trattamento della caduta dei capelli. Sono differenti, noi diciamo i capelli mi cadono, ma il dermatologo riesce a fare diagnosi. Oggi cercheremo proprio di capire le differenze tra una caduta fisiologica, quella autunnale, per questo ne parliamo sempre in autunno, però ci sono altri tipi, no, di problemi che vanno naturalmente diagnosticati, e soprattutto ci sono delle terapie innovative molto interessanti. Bisogna però conoscerle e soprattutto cercare di fare una distinzione tra quelle attualmente disponibili e quelle invece ancora in fase sperimentale, che hanno occupato le pagine dei giorni scorsi dei giornali con titoli molecole anticalvizie, la calvizie è ormai messa a KO. Non è proprio così. Se volete saperne di più, sentiamo insieme che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo in compagnia del dottor Rinaldi, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Molto lentamente, ma inesorabilmente, sto stempiando emoção. Meu papá senza riguardi, sembra Angelo Branduardi. Dice, avrai preso da nonno, era pelão. Era Pelau, la buttiamo un po' sull'ironia, come insegna Gigino con la sua canzone Stempiando, che stiamo ascoltando. Autunno, tempo di castagne e di conte, parliamo di capelli che cadono e delle cure a disposizione per le varie situazioni, ci aiuta il dottor Rinaldi. Quando siamo di fronte ad una perdita importante e prolungata, abbiamo sentito dal dottor Rinaldi che oltre al numero di capelli che perdiamo, 50, 100 e al tempo, no? Ma è importante anche la dimensione del capello, se abbiamo capelli particolarmente sottili e difficili da pettinare, facciamo attenzione. Però la cosa più importante è capire la causa, no, di questo problema, quindi andare dal dermatologo, che è lo specialista di riferimento. Perché si va dal dermatologo? Voi dermatologi dite che spesso il problema più serio è proprio l'ignoranza in mancanza di capelli, l'autogestione. Sì, è vero, è vero. La dermatologia è la scienza medica che si occupa della pelle e degli annessi, si chiama, cioè le unghie e i capelli. I capelli sono fatti come le unghie e come la pelle, parzialmente, e la patologia della pelle determina questo. Poi i capelli sono talmente complessi che hanno interazione con tutto. Se la tiroide funziona male, i capelli cadono. Ma i capelli sono talmente complessi che si fanno i loro ormoni tiroidei, che si fanno i loro ormoni estrogenici o tutto il resto. I famosi controlli della ghiandola pineale, cioè della melatonina, per dire, tutti i ritmi, fanno cadere i capelli se uno tutte le notti va a letto alle 4 del mattino, perché sballano gli orologini. E il dermatologo è lo specialista di questo. Poi ci possono essere patologie o situazioni connesse, allora magari servono altre specialità, certo. Ma la base è questa. Alla base è quella, si parte dal dermatologo e noi partiamo dalle soluzioni che possono essere adottate nel caso in cui la caduta persista un po' nel tempo, no? Allora, ci sono delle sostanze naturali che stimolano i bulbi a stare nella loro fase attiva, dottor Rinaldi? Sì. Quali sono? Ci sono delle sostanze naturali che sono dei principi attivi naturali, adesso va di moda moltissimo, ma su studi scientifici però non è solo moda. Per esempio il Ganoderma lucidum si usa da 3000 anni in Giappone e parzialmente viene dato in certe coadiuvante di terapie oncologiche, perché aiuta il corpo a ridurre la morte cellulare e tra l'altro ha un'azione particolare su questi recettori specifici di certe cose dei capelli, per cui li tiene in vita. Ci sono degli amminoacidi fondamentali. E quindi è indicato per chi ad esempio ai capelli particolarmente sottili? Sì, è indicato laddove, qui parlavo prima dell'orologio, laddove questo orologio del bulbo va male e allora la fase attiva non è giusta e quindi dura troppo poco e quindi i capelli cascano. Il problema, sì, è che se il mio orologio va troppo avanti io non, certo, riesco a farmi le 24 ore, certo, e il bulbo fa così. E qua può aiutare il Ganoderma lucidum, per esempio, che è il fungo giapponese che ha un'azione anti-morte cellulare incredibile. Come si chiama? Ganoderma lucidum, sì, vero? Sì, è un miracoloso fungo giapponese che è utilizzato da millenni, sì, sì, nella, sì, medicina, sì, orientale. Perché peraltro nella medicina naturale orientale, quindi stando fuori dai farmaci, si possono fare grosse cose. Poi ci sono degli amminoacidi che sono contenuti nella carne, per esempio soprattutto di pollo o di tacchino, ma anche nel resto, in certe verdure, in certe sostanze naturali, ovviamente, come l'ornitina e la taurina, che sono fatte per regolare il ciclo di vita dei cheratinociti e dei fibroblasti, che sono i mattoni della pelle dei capelli. Senza quella roba lì non riusciamo a fare. Piedi. Quindi abbiamo bisogno delle sostanze naturali per tirare sul muro, per tenere i mattoni, quindi sono fondamentali. E poi da almeno ormai 7-8 anni, ma sempre di più, possiamo utilizzare i polipeptidi di crescita o i fattori di crescita. I fattori di crescita sono quella cosa che ci tiene in vita tutti i giorni e che sono i messaggi cellulari che ci danno i tempi, quindi, sì, comincio adesso, faccio adesso. Queste sono sostanze totalmente naturali, addirittura sono contenute nella legge cosmetica, quindi non sono dei farmaci, quindi non hanno rischi, che regolano il tempo di vita del bulbo e quindi allungano il più possibile la fase attiva e quindi riducono la caduta, per banalizzare. Parleremo naturalmente anche di calvizie, dette anche alopecia androgenetica, una condizione che uomini e donne anche possono incontrare nel corso della vita. Cercheremo di capire come si presenta, ma prima diamo la parola a Stefania da Como. Cosa dici, Deborah? Sì, sì, sì, volentieri. Anche perché secondo me propone un tema che è comune a moltissime donne. Bene. Stefania, benvenuta. Grazie, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Buongiorno dottor Rinaldi. Buongiorno. Io confermo quanto lei diceva prima sul fatto che il capello mi mostra se sto bene o se sto male, perché è la prima cosa che guardo e me lo conferma puntualmente, insomma, se non sto bene. Il mio capello si sporca immediatamente se non sto bene. Sì. La mia problematica è che mi si sporca la parte anteriore, quella dove c'è la frangia, diciamo, dei capelli molto lunghi io, e mentre il resto della capigliatura è molto secca. Quindi mi domandavo se è il caso di verificare se c'è qualche collegamento con le malattie, oppure se è solo una questione di utilizzo di prodotti sbagliati, oppure magari... noi con le mani siamo sempre, soprattutto per chi ha la frangia, cerca di rimetterla un po' a posto, perché magari no? Oppure anche perché stranamente la distribuzione delle ghiandole sebacee è maggiore nella parte concentrata nella parte mediana del corpo, quindi è probabile che, è vero che magari secernono un po' di più, però tutto è concentrato più lì, al di là del fatto che poi nella zona posteriore effettivamente ce ne sono un po' meno. Però se la quantità di sebo è eccessiva o ogni tanto è troppa rispetto alla normale media, sì, vale la pena andare a vedere. La regolazione delle ghiandole sebacee è controllata dalla tiroide, dagli ormoni, da un sacco di cose, quindi può essere giusto controllare. Allora adesso noi dobbiamo andare a sentire il nostro GR. Certo. Voglio darvi un'anticipazione di quella che sarà la seconda parte del tema, e quindi parleremo naturalmente di terapie. Partiremo dal minoxidil e dalla finasteride, che sono delle vecchie conoscenze, per andare ad informarvi sui nuovi trattamenti oggi a disposizione, che naturalmente devono essere prescritti dal dermatologo dopo la diagnosi. A tra poco. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più, ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Come porti i capelli bella bionda, tu li Scusi, porti alla bella marinara. Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto. Allora, se volete raccontarci come portate i vostri capelli, se ancora ce li avete, e soprattutto come cercate, noi qua prendiamo tutti, di evitare che si indeboliscano, 800 24 00 24, ancora pochi minuti per intervenire in diretta, ma soprattutto insieme al dottor Fabio Rinaldi oggi parliamo di tutti quei trattamenti oggi a disposizione per contrastare la calvizie. Dottor Rinaldi, iniziamo da due vecchie conoscenze che sono utilizzate da anni, il minoxidil e la finasteride, utilizzate da anni per l'alopecia androgenetica. Per essere precisi però, la finasteride nelle donne in età fertile è controindicato, giusto? Sì, in quanto in caso di gravidanza può provocare una mancata virilizzazione del feto di sesso maschile. Fondamentale è una visita medica, è il dermatologo che prescrive, perché sono farmaci, e in questo caso i farmaci hanno... Torniamo indietro, fondamentale è la diagnosi. Ci sono delle forme in cui in realtà non è un'alopecia androgenetica e quindi quel farmaco lì non serve a niente. Bravo. Si prende un farmaco per niente perché serve un'altra cosa. Quindi prima di tutto capire che cosa c'ha, come abbiamo detto prima. Minoxidil e finasteride sono due farmaci utilissimi. Il minoxidil nell'81-82 è stato il farmaco che ha fatto capire che si potevano curare i capelli, ha dato la svolta. Secondo me ormai ci sono cose anche migliori e diverse, ma il minoxidil rimane un farmaco fondamentale. Non è più solo questo, uno e due, punto e basta, ci sono alternative, ma il minoxidil non va usato a tempi lunghissimi perché poi perde l'efficacia sui recettori, va fatto, però va benissimo, può dare qualche irritazione ma niente di che. La finasteride è un farmaco vero, è nato per curare l'ipertrofia della prostata e il tumore della prostata di un certo tipo, il recettore è uguale, prostata, gli andrologi infatti la conoscono bene. Lo conoscono bene, credo però che ormai della finasteride si sa tantissimo, io da sempre onestamente credo che non si debbano fare terapie troppo prolungate con la finasteride, perché è un farmaco e perché degli effetti collaterali li ha, perché tutti i farmaci li hanno, ce li hanno, insomma. Ne conosciamo ormai alcuni e poi ce ne sono alcuni che sono noti o non noti, ma già anni fa si parlava addirittura di rischio del tumore della prostata da finasteride. Adesso è nata una grossa storia per cui in internet, sui blog, un sacco di gente parla di questa sindrome post finasteride ed è per questo che credo che valga la pena puntualizzare. Per cui adesso c'è un sacco di gente terrorizzata per aver preso la finasteride per anni o mesi, pensando di avere questa sindrome. Sindrome che vuole dire impotenza, infertilità, depressione, dolori ossei e così via. Esiste un unico lavoro pubblicato scientifico e 100.000 voci e rumors sui blog, e l'unico lavoro scientifico ridimensiona questo. Noi da un anno stiamo facendo un altro lavoro di questo tipo, che è un lavoro di revisione dei soggetti, non si può fare altro, e di valutazione vera. Noi mandiamo dallo specialista per il sintomo, per valutare se è depressione, se è impotenza, quel che è. In realtà è probabile che esista un rischio alla lunga, e quindi io sconsiglio lunghi periodi di finasteride. Ma quando lei dice lunghi, cosa vuole dire? Un anno, due anni, cinque anni, dieci anni. C'è gente che la prende da 15 anni. Certo, per i capelli, quando si interrompe l'effetto svanisce. Qualsiasi terapia per i capelli fa svanire. E quindi, dato ma che poi i capelli si può fare danno sempre molte preoccupazioni. Certo, allora certo, uno però, non vuole smettere il farmaco perché teme di perdere i capelli. Però esiste un buon senso. Senso, soprattutto dovrebbero esistere dei medici aggiornati che si prendono in carico il paziente, quindi quando somministrano un farmaco lo informino correttamente di quello che il farmaco può portare, anche hanno degli effetti collaterali. Però c'è anche la autosomministrazione, cioè mi va bene, chi se ne frega, non sento fastidio. Sento il dutur. Senta dutur, prima di dare facciamo allora una panoramica. Lei ha detto che sono ottime molecole, ma c'è di più, c'è altro. Forse qualche cosa anche di meglio. Soprattutto mi sembra che la grande svolta siano anche i trattamenti che permettono di veicolare le molecole in modo più efficace e al tempo stesso meno invasivo. In una puntata, e poi lei ha fatto impazzire i nostri centralini, ha parlato per la cura dell'alopecia androgenetica, quella che noi definiamo normalmente calvizie, di un farmaco che era nato come farmaco per la cura del glaucoma e che invece prometterebbe degli ottimi risultati nel trattamento di questa patologia. Ce lo ripresenta? Sì, promette, in effetti fa abbastanza, nel senso che stiamo sempre parlando di situazioni scientificamente corrette, non fa miracoli niente. Il latanoprost o il bimatoprost, che sono due sostanze che stimolano una prostaglandina nostra a fare una certa cosa, in effetti fanno crescere i capelli. Uno dei pochi effetti collaterali del latanoprost usato come collirio nel glaucoma è la crescita in lunghezza delle ciglia. Addirittura in America c'è un cosmetico per una specie di eyeliner che aiuta a crescere le ciglia. Vedi, quindi, quante ne sa? Ne so tantissime. Poi gli chiedo anche dei semi di lino per le punte dei capelli, quelli che vuole sempre fan il bene, parrucchiere. Fanno bene. Però una volta, quando il parrucchiere dica, quando ti vedono, no? Hai i capelli sempre in uno stato disastroso, le metto il prodotto, ma una volta cosa? No, non sai. Infatti io dico, guardi, lasci perdere. Serve poco. Mi lasci così. Certo. Questo latanoprost fa molto, non ha grossi effetti collaterali, l'unico effetto collaterale è il costo, nel senso che a concentrazioni utili una soluzione fatta in farmacia potrebbe costare dei 600-700 euro per un mese, però a concentrazioni un po' più basse oppure in veicolazioni diverse, come diceva prima, con la ionoforesi si possono veicolare meno quantità, quindi maggiore concentrazione riducendo la quantità, quindi il costo, si possono avere dei buoni effetti. Beh, siamo a cuore denari, certo. Anticipiamo certo. Anche ci sono dei trattamenti per l'alopecia areata, che i capelli cascano a ciuffi, formano delle chiazze vuote oppure cadono un po' dappertutto e si ha un diradamento molto vistoso. Non è una forma così rara come si potrebbe pensare. Faccio un inciso, c'è una ragazza di 28 anni che ci ha scritto una lunga mail su questo caso specifico, si chiama Stella, quindi volevo dirvelo, magari poi la sottoponiamo in privato, certo. Al nostro dottor Inerti. Vale sempre l'invito per dei casi personali di chiamarci. I nostri medici però non possono farvi diagnosi. Certamente. Né via mail né via sms. Naturalmente possono magari aggiornarvi su quello che la letteratura scientifica ha prodotto, soprattutto per quanto riguarda la salute. Mi voglio sempre sottolineare questo aspetto, perché se no creiamo delle false illusioni. Dottor Rinaldi, alopecia areata, ci sono dei trattamenti nuovi che vogliamo far conoscere ai nostri ascoltatori, sì. Possiamo dare delle speranze? Sì, diamo delle speranze, nel senso che i trattamenti nuovi sono al di là del PRP, cioè dei fattori di crescita piastrinici, che si è dimostrato uno dei trattamenti più utili e a meno rischi di effetti collaterali, quindi comunque fattibile, ed è un trattamento, il plasma ricco di piastrine, quindi fattori di crescita, un po' come dicevamo prima. È stato l'anno scorso, poi è stato un po' ripreso, le notizie su questi farmaci biologici che servono a curare una malattia di un eccesso di formazione di piastrine nel sangue, nel midollo, che hanno questi nomi complicatissimi e improponibili. Lo rileggo perché sennò mi riblocco. Il ruxolitinib, e ce n'è anche un altro, che secondo un certo studio sono gli studi di Angela Cristiano, Cristiano lei conosce bene, sì, che da un punto di vista biologico sono estremamente importanti, anche di un altro, tra l'altro un coautore con cui abbiamo fatto il lavoro per le piastrine, un collega con cui lavoriamo insieme. Dei belli studi hanno fatto vedere la causa della biologia, sono gli stessi linfociti killer di cui parlava prima il professor Biondi. Perché l'alopecia areata è una malattia autoimmune di un certo tipo. Il problema è che questi farmaci sono dei farmaci a rischi di effetti collaterali furibondi. L'esperienza clinica è praticamente nulla, stiamo parlando di qualche caso, è per l'alopecia areata. L'anno scorso l'informazione, e la ringrazio per questo, per poterlo dire, l'informazione è stata sbagliatissima nei media, perché tutti e anche giornali importanti hanno intitolato finalmente il farmaco che risolve la calvizie. Ecco, non è così. Non è così, perché non è calvizie, l'alopecia areata è un'altra malattia. Costa 40.000 euro, però può far partire il midollo. Sono farmaci importanti e gravi. Ecco, e gravi, se, quindi non se ne parla neanche. Allora, non abbiamo tempo di dare la linea ai nostri ascoltatori, che ringrazio, mi scuso, se volete chiamare e scriverci, naturalmente via mail troverete risposta. Dottor Rinaldi, grazie per grazie essere stato con noi. Lasciamo naturalmente la parola a Deborah per il tema di attualità di cui si occupa oggi. Deborah. Sì, direi l'ora di partire. Per americani e inglesi una bomba, la causa del disastro aereo del Sinai. Mosca, solo congetture, ma intanto molte compagnie cancellano i voli da e per Sharm el Sheikh. Si fa strada l'ipotesi della bomba dell'ISIS nella sciagura dell'Airbus caduto in Sinai. Molte compagnie... 1500 turisti italiani bloccati, mentre l'ENAC dispone controlli aggiuntivi sui voli dalla località balneare egiziana. Ormai è incubo bomba. Secondo i servizi segreti degli Stati Uniti sarebbe stato un ordigno piazzato a bordo. Allora, emergenza. Egitto, la caduta dell'Airbus A321 della compagnia russa Metrojet sul Sinai assume ogni ora, lo avete sentito anche nei nostri radiogiornali, contorni più preoccupanti, visto che viene attribuita ad un attentato. Ovviamente le considerazioni anche delle autorità dei paesi interessati continuano a rincorrersi, e comunque molti paesi stanno dando indicazione alle compagnie aeree di sospendere i voli verso quest'area. Ne stanno parlando tutti. Noi ne parliamo dal nostro punto di vista, quello di Cuore e Denari. Fino alle 12 cerchiamo di rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, alle vostre preoccupazioni, soprattutto a quelle di chi sta partendo, ha prenotato un viaggio da qui alle prossime settimane e già naturalmente è partita la preoccupazione. Allora, ieri abbiamo cominciato a diffondere attraverso i nostri social, i nostri siti, le anticipazioni del nostro programma di oggi, quindi del fatto che ci saremmo occupati di questo argomento. Subito alcuni ascoltatori ci hanno scritto, vi leggo un paio di mail che ci sono arrivate. Gabriele ci ha scritto: sabato 7, quindi domani, sì, dovrei partire con la meridiana per Marsalam. Io e mia moglie siamo oramai angosciati per questa partenza, lo possiamo anche capire, comprendere. Abbiamo pagato un'assicurazione in agenzia, come dobbiamo comportarci anche se la compagnia continua a volare? Come possiamo fare per tutelarci e avere un eventuale rimborso? Riccardo: ho prenotato invece una vacanza in Egitto a Natale Capodanno con la mia fidanzata. Dopo il Cairo andremo a Luxor e Aswan e in seguito dovremo andare a Dahab volando su Sharm el Sheikh. Al momento dell'acquisto dei voli non abbiamo fatto l'assicurazione per il rimborso in caso di annullamento, ma nel caso in cui decidessimo di non andare a causa degli ultimi avvenimenti, potremmo chiedere un rimborso di qualche tipo e a chi ci dobbiamo rivolgere? Cercheremo di capirlo. Riccardo, noi intanto questa mattina abbiamo pensato di rivolgerci a Pier Giorgio Reggio, direttore commerciale turismo di Blue Team Travel Group, che salutiamo, è venuto a trovarci qui negli studi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie. E bene ha fatto. E certamente, ottimamente. Perché non bisogna perdere l'occasione. E salutiamo anche un altro amico di Cuore Denari, l'avvocato Marco Gagliardi, responsabile settore trasporti del Movimento Consumatori, perché naturalmente anche le associazioni dei consumatori in queste ore si sono super attivate. Vi leggo già, anzi, avvocato Gagliardi, intanto buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Coda Consa proprio poco fa ha diramato questo comunicato stampa dove invita le compagnie aeree a bloccare tutti i voli su Sharm el Sheikh e a rimborsare i passeggeri possibile, dice, di slittare i viaggi senza penali. Allora bisogna capire se è davvero così. Pier Giorgio Reggio, volevo commentare subito con lei un po' i dati che ci sono relativamente alle presenze degli italiani mediamente in queste aree. Sono molto amanti gli italiani di Sharm el Sheikh e di queste bellissime aree dell'Egitto, che sono comunque travagliate da tante vicende politiche, non da oggi, non da ieri, ma da moltissimi anni. Sì, purtroppo stiamo vivendo un momento molto difficile per questa destinazione, che ha fatto la storia per il mercato turistico italiano per vari motivi, perché non dimentichiamo che è una destinazione raggiungibile in 4 ore con un clima che ci permette di effettuare una vacanza di mare nei 12 mesi, quindi con un prezzo decisamente accessibile e con un'offerta veramente variegata. Quindi è una destinazione che per il mercato, per il settore del turismo è veramente fondamentale, sia per volumi che per passaggi. Passeggeri movimentati. Ormai da anni viviamo una situazione difficile, che comunque tutta la filiera turistica sta cercando di affrontare nel migliore dei modi per dare il massimo della tutela e del servizio ai consumatori, ma anche per tutelare le aziende che lavorano nel settore turistico. Quindi è una difficoltà che stiamo vivendo ormai da qualche anno, e questo in qualche modo si vede anche nei numeri, perché una destinazione come questa, io l'ultimo dato di queste ultime settimane prevede una presenza di circa 1300 passeggeri su Sharm italiani, quindi un dato infinitamente basso, inferiore rispetto a quelli che sono i dati storici del traffico degli italiani su questa destinazione. Quindi anche queste notizie, insomma, non promettono nulla di buono né al settore né alla destinazione, ma dobbiamo avere la cautela di non prendere decisioni affrettate senza avere delle informazioni ben precise. Allora, poi posso capire che naturalmente stia riconsiderando il proprio viaggio quel turista che naturalmente era in procinto di partire, lo doveva fare magari da qui a pochissime settimane. C'è già chi ci sta scrivendo che invece ha prenotato un viaggio in queste aree l'estate prossima, nella prossima primavera, quindi magari, ecco, voi aspettate un attimo prima di drasticamente riconsiderare la vostra vacanza. Le leggo questa agenzia Reggio: le autorità egiziane hanno sospeso i piani della compagnia aerea EasyJet per riportare in patria i turisti bloccati a Sharm, lo ha reso noto la stessa società. Che cosa vuol dire? Cioè, ma la difficoltà di un'azione come quella della sospensione dei voli, come quella che è stata attuata in questo momento dalla Gran Bretagna, pone un problema particolare, che è quello del rimpatrio dei passeggeri che sono presenti in destinazione. Quindi questa notizia eventualmente pone proprio il problema di come far rientrare i passeggeri arrivati a destinazione con EasyJet nelle proprie aeroporti di provenienza. Quindi bisognerà in questo caso approfondire e capire quale sarà poi il processo di rimpatrio, perché è fondamentale da quel punto di vista, e non si può neanche pensare che questo preveda dei tempi di rientro eccessivamente lunghi. Allora io adesso sentirò anche le prime considerazioni indicazioni, i primi suggerimenti delle associazioni dei consumatori da parte dell'avvocato Marco Gagliardi, ma visto che ho proprio fatto questo commento su chi ha prenotato una vacanza molto in là nel tempo e vorremmo invitare queste persone a non drammatizzare, anche se ci sono tutte le ragioni per farlo, certo, naturalmente, ma a non farlo adesso, allora subito Emma dalla provincia di Roma direi che la dobbiamo fare intervenire a Cade a fagiolo. Esatto. Emma, lei ha prenotato per giugno dell'anno prossimo? Eh sì, per giugno. Sì. Però ecco, purtroppo dopo quello che è successo volevamo chiedere il rimborso o spostare il volo in un'altra parte dove comunque è un po' più sicuro. Mm. Senta Emma, lei intanto come ha prenotato questo viaggio? Lo ha fatto con un tour operator? Perché poi sono delle condizioni, delle discriminanti importanti per avere e rivendicare il diritto ad ottenere un rimborso qualora il viaggio si annulli. Ha fatto una prenotazione con un tour operator? Ha fatto un pacchetto anche assicurato? No, no, noi abbiamo prenotato con EasyJet, come lo facciamo tutti gli anni, quindi direttamente con EasyJet. Allora Emma, per quello che riguarda il pernottamento, l'hotel, quindi ha fatto una prenotazione immagino separata, non è un tour operator? Sì, sì, abbiamo fatto con Travel Republic, però non ci sono problemi perché loro, ecco, ci rimborsano con i 10 euro di anticipo. Il problema è il volo. Ma guardi, per quello che riguarda il volo, magari qui si può, a prescindere diciamo dal fatto che sono cambiate le condizioni politiche e di sicurezza di quell'area, può magari disdire il volo Reggio e ottenere un buono per fare un viaggio da un'altra parte. È difficile? In questo momento la sospensione di EasyJet è prevista fino al 12 novembre, quindi tutte le partenze successive, io il consiglio che mi sento di dare è quello di attendere nuovi sviluppi e nuove informazioni che arrivano da parte della compagnia aerea, perché in questo caso si tratta di un rimborso di solo una tratta aerea, quindi andata e ritorno su Sharm el Sheikh, e quindi bisognerebbe capire se nel caso in cui la cliente non avesse fatto un'assicurazione per l'annullamento, quali sono gli sviluppi della compagnia. Oggi ritengo sia prematuro per una partenza così, certo, distante. Avvocato Gagliardi, allora lei che cosa si sente di suggerire alla nostra ascoltatrice? Come possiamo commentare intanto i primi elementi che abbiamo messo a tappeto sul tavolo fino a questo momento relativamente a questa emergenza che sta spaventando naturalmente un po' di persone? Ma sì, teniamo conto che Sharm non è la classica meta del turismo fai da te, per cui ci sono casi come quello della signora Emma di persone che hanno prenotato il volo andata e ritorno, ma la stragrande maggioranza dei casi saranno quelli di persone che hanno acquistato pacchetti turistici. Questa è una situazione diversa, diciamo anche migliore rispetto a quella dell'acquisto del solo volo per il consumatore, perché si è sviluppata un'ampia giurisprudenza per cui laddove venga meno la finalità turistica, cioè lo scopo di piacere, che è il presupposto di un viaggio, è possibile, specialmente se c'è uno sconsiglio, come è successo in passato e finora non ci risulta. Perché poi anche lì ha fatto bene a richiamare questo aspetto, perché un conto è lo sconsiglio, un conto è la raccomandazione, che sono proprio due espressioni diverse, avvocato. Adesso ci arriveremo. Infatti c'è anche Max che ci scrive: il problema per chi ha prenotato è che la Farnesina non dichiara lo stato di allerta, che sarebbe questo lo sconsiglio, no, avvocato Gagliardi? Poi anche da esattamente sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri sono riportati gli aggiornamenti in tempo reale sui eventuali sconsigli in aree del mondo dove ci sono pericoli per l'incolumità dei turisti. Ad esempio adesso uno è stato pubblicato, uno per la destinazione delle Maldive. E appunto un elemento fondamentale che però potrebbe non essere, diciamo, decisivo, nel senso che laddove comunque la tranquillità psicologica della psicologia del consumatore viene meno, perché questi fatti si ripetono ed è comunque un luogo che fino a poco tempo fa era considerato come un'area sicura in Medio Oriente, insomma è possibile comunque cercare di argomentare e sostenere che sia venuta meno la finalità turistica per chi deve partire a breve. Max peraltro completa il suo messaggio con un tono un pochino malizioso e dice: probabilmente la Farnesina non dichiara questo stato d'allerta perché vuole fare il gioco delle agenzie del turismo, Reggio, non vuole danneggiarvi. Beh, ma è anche giusto che chiaramente non si crei un allarme, anche se forse i presupposti per crearlo un pochino direi che ce ne sono. Ma non credo a un'ipotesi di questo tipo. tipo. Credo invece a una difficoltà e a una falla normativa importante su questo tema, perché ribadisco il concetto per cui la Gran Bretagna in questo momento ha sospeso i voli, quindi è sicuramente un'azione ben diversa da quello che può essere uno sconsiglio diramato dalla Farnesina. Quindi c'è proprio una difficoltà ormai nell'interpretazione della normativa, per quanto poi difficile sia il tema del codice del turismo, però ritengo che poi siano tutte interpretazioni che verranno poi demandate alle singole azioni legali. Quindi non c'è proprio una come dire, una chiarezza che permetta sia al consumatore che a questo punto agli operatori del settore di muoversi in maniera certo, molto trasparente. E in questa falla normativa intanto le persone che devono partire tra oggi, domani e dopodomani non sanno che cosa fare. C'è anche Renzo, Nicoletta, sei visto da Verona, che dice devo partire domenica mattina, esatto. Cosa mi consigliate? Allora ci pensiamo un attimo intanto che facciamo i mercati, che dici? Ecco, ti fai illuminare no, dalle borse. Ci facciamo pensare Pier Giorgio Reggio e Marco Gagliardi, noi intanto sentiamo cosa succede in borsa oggi. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari. In questa seconda parte del nostro programma stiamo facendo chiarezza rispetto a quanto sta succedendo in Egitto, Sharm el Sheikh e dintorni, per intenderci, dove in seguito allo schianto dell'Airbus della russa Metrojet con 224 persone a bordo, decollato proprio da Sharm el Sheikh, tante compagnie stanno interrompendo i voli da e per la popolarissima meta turistica. Si è scatenato ovviamente molto timore fra soprattutto quei turisti pronti a partire. Noi stamattina stiamo cercando di capire cosa è il caso di fare. E certo che è difficile dare suggerimenti a chi ha praticamente il biglietto in mano e parte domattina, come succede a Gabriele che deve partire proprio domani mattina con la meridiana per Marsalam. Riccardo invece ci ha scritto che deve partire per questa articolata vacanza in Egitto, ma lo farà tra Natale e Capodanno, per cui intanto la prima indicazione è cercare di capire come orientare chi è pronto a partire e chi invece ha il viaggio un po' più procrastinato nel tempo. Intanto vi leggo questa agenzia: è in programma per domani mattina il primo volo charter in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per Sharm el Sheikh con scalo intermedio a Marsalam. Il collegamento effettuato dalla compagnia aerea Blue Panorama con un Boeing 737 partirà dallo scalo romano alle 11:15. Noi stiamo commentando queste notizie con i nostri ospiti di stamattina, che sono Pier Giorgio Reggio, direttore commerciale e turismo di Blue Team Travel Group, e l'avvocato Marco Gagliardi, responsabile settore trasporti del Movimento Consumatori. Reggio, ritorno per un attimo da lei. Allora, per chi parte domani mattina, lo facciamo partire secondo lei o meno? C'è chi evoca anche tutto il discorso della fatalità, no, Nicoletta? È anche un po' vero questo, esatto. Cioè. Mentre c'è anche l'altra ascoltatrice che dice che se la godrà senza alcun problema. Gianluigi dice che partirà lunedì, farà la crociera sul Nilo, una settimana a Sharm, sarà bellissimo perché troverò pochissima gente. Reggio. Ma il timore di chi oggi deve raggiungere questa destinazione è assolutamente comprensibile. Poi naturalmente ogni singolo consumatore vive queste notizie in maniera completamente diversa, questo l'abbiamo visto anche nei messaggi che arrivano oggi. Il cliente che parte domani, la prima cosa che dovrebbe fare è controllare immediatamente, visto che afferma di avere assicurato il viaggio contro l'annullamento, controllare immediatamente che tipologia di assicurazione ha fatto, quali sono i casi previsti dalla polizza assicurativa stipulata, in quel caso recarsi in agenzia per chiedere maggiori dettagli e informazioni. Colpisce il fatto che prima cosa ha scritto alla radio e ancora non è andato in agenzia a tentare quantomeno di informarsi nel caso volesse annullare il viaggio, no? Perché quindi così raccoglie tutte le informazioni e va in agenzia preparato. Ma mi sembra che abbia fatto invece un passaggio fondamentale. Io invece sono rimasta colpita dalla dinamica di questo evento. No, è fondamentale anche perché comunque deve contattare sicuramente la propria agenzia. Io dicevo appunto, è importante avere anche una formazione da parte dei consulenti di viaggio, quindi gli agenti di viaggio, sul mondo assicurativo, perché diventa veramente una variabile importante per valutare anche il proprio consulente di viaggio. 800 24 0024. Intanto, naturalmente, non ho ancora ricordato il numero verde che si può utilizzare come ogni giorno anche per intervenire su questo argomento. Ne stanno approfittando anche ascoltatori che devono fare viaggi in tutt'altra parte dell'Egitto, ma che si sono spaventati comunque. Adesso, prima di sentirlo, però, vorrei, Nicoletta, se mi permetti, ridare per un attimo la parola all'avvocato Gagliardi, perché so che, visto che prima Pier Giorgio Reggio ha parlato di questo concetto di falle normative, no, nella gestione di problematiche come quella attuale, lei è un avvocato e quando chiaramente la normativa di riferimento manca, anche per voi credo che sia un bel problema, però lei differenzia nella gestione di queste eventualità, di queste circostanze, la situazione di chi ha appunto comprato un pacchetto turistico completo e chi invece, come ha fatto Emma da Roma che ci ha chiamato prima, ha prenotato il volo con EasyJet, ha prenotato il pernottamento con un'altra modalità separata chiaramente da quella aerea. Ecco, ci vuole un po' orientare gli ascoltatori a seconda della modalità con cui hanno prenotato il viaggio in Egitto? Ma sì, appunto. Allora, se il volo è stato cancellato, intanto non ci sono problemi, per cui c'è il diritto alla restituzione del prezzo. E questo è chiaro. Agosto 2014 con EasyJet. Se il volo invece è confermato, non è semplice ottenere lo scioglimento, perché non si può contestare a venire meno di quel presupposto di cui abbiamo parlato prima, cioè la finalità turistica. Noi abbiamo registrato comunque e auspichiamo una doverosa collaborazione delle compagnie aeree che si dovranno mettere a disposizione per la sostituzione di voli, cambi destinazioni e rimborsi. Poi cambia anche la situazione a seconda di quando è prevista la partenza, nel senso che sarà ben difficile oggi ottenere la restituzione del prezzo di un volo tra 6 mesi, perché potranno cambiare nel frattempo le condizioni e il contesto. Certo. Invece è ovvio che la situazione per chi parte domani è ben più problematica, e anche da oggi a domani mandare un reclamo, avere una risposta, è impossibile. Lei partirebbe, avvocato, che farebbe? Ma io andrei da un'altra parte, però è anche delicato parlare di queste cose, nel senso che diventiamo poi noi stessi complici dei terroristi nel momento in cui creiamo terrore se ingiustificato. Lo sapevo che l'avvocato Gagliardi avrebbe fatto questo commento, perché l'ha fatto molto chiaramente su Facebook, l'avevamo visto stamattina con il mio assistente, con Marco Lombardo, per cui guardi, le posso dire che anch'io ieri con Nicoletta ne parlavo, eravamo molto indecise se fare questa trasmissione o meno, perché qua o enfatizzi, no, le preoccupazioni delle persone o cerchi di ridimensionarle, cerchiamo di essere quanto più freddi possibili, Reggio, come capiterà anche a voi in questo momento nelle vostre sedi, nei vostri uffici. Sicuramente il tema è delicato, perché da un lato non dobbiamo fare del facile allarmismo, perché comunque in questo momento, dove tra l'altro mancano delle informazioni precise e dettagliate anche sulla reale situazione, creare dell'allarmismo in questo momento potrebbe essere veramente dannoso, e quindi sicuramente questo è il rischio che non dobbiamo fare. Dico anche che è comprensibile il timore dei consumatori in questo momento in una destinazione che è già difficile di per sé, e quindi non trovo neanche corretto sminuire quella che può essere la preoccupazione di un consumatore che deve recarsi in una destinazione così. Un po' quello che dice Edoardo, no, su Twitter, sì, come può venire in mente, scrive di fare vacanze in quei posti ora e continua, tutto è relativo, ma esiste anche il un prevedibile. Un po' imprevedibile, peraltro. In effetti, insomma, erano delle aree che non stanno già pagando dopo la condizione, situazione di allarme. Sì, sono aree allarme, che ora quindi sono lontane da quelli che sono i volumi, i movimenti di passeggeri che vedevamo negli anni passati, cioè parliamo veramente di volumi completamente diversi. Però è una destinazione che per natura non è sostituibile e quindi per tutte le opportunità che offre, tutte le opportunità che lei ci ha ricordato, offre, quindi è una destinazione che nel passato si è cercato di sostituire, ma è veramente insostituibile. Quindi un po' come la Grecia di quest'estate. Pensavo che tu dicessi un po' come noi, come Cuore Denari. Ah, no, ma lì io lo davo per scontato, non mi sono voluta soffermare modestia, no, certo, ovviamente, sul concetto. Ma lo confermo io se posso. Bravo, bravo. Vabbè, non è per allora, niente, no, stiamo il fratello della mia migliore amica. Allora sentiamo invece Antonio, perché non abbiamo capito se è stato scritto male il nome della località dove Antonio dovrebbe andare, oppure se proprio vuole andare lì e si preoccupa. Antonio. Sì, buongiorno. Sì, dove deve andare intanto a fine novembre? Allora no, tra una decina di giorni sì. Vado a Malta, però ho un po' di timore. Io ho prenotato un viaggio molto easy, diciamo, su internet, quindi un low cost, ci vado con la famiglia. Guarda, ma c'è andato anche il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la Valletta, 2 settimane fa. Là non si sono neanche portati la scorta, ma perché deve preoccuparsi di Malta, Pier Giorgio Reggio? E questo è il tema che affrontavamo prima, cioè l'allarmismo che diventa poi diffuso e va a colpire aree geografiche che in questo momento ritengo assolutamente fuori da qualunque area di rischio. Ribadisco, è sempre comprensibile che chiunque in questo momento esprima i propri timori nell'affrontare un viaggio. Intanto Giuliano da Cesenatico, l'hai visto cosa sta facendo? Sì, adesso sentiamo anche il traffico. Lui sta andando a prenotare a Bologna, Sharm el Sheikh per dicembre. Magari costa pure poco e quindi lui già fa una bella speculazione finanziaria. Hai visto? Pensa che i prezzi stiano già scendendo. Che crolli, e no? E quindi ne approfitta. Allora, noi invece andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme, certo, con i nostri ospiti. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Cuore e denari. Pier Giorgio Reggio, a parte l'emergenza Egitto, ieri ad un certo punto si è parlato anche di rischio Maldive, un'altra meta un po' più costosa dell'Egitto, ma comunque particolarmente gettonata dagli italiani. C'è questa nuova crisi politica che minaccia quest'area, è un vero e proprio paradiso tropicale, lo sappiamo bene, ma insomma qualche giorno fa c'è stato uno stato di emergenza. Che non è stato... per esperienza diretta. Purtroppo no, esatto. Parliamo, ma per sentito dire, dovremmo andare io a fare un bel viaggio per poi, certo, magari fare una corrispondenza da là, io e te, no? Vediamo se cuore e denari ce lo possono trasferire lì. C'è stata questa proclamazione di emergenza da parte del presidente Abdullah Yamin per motivi di sicurezza nazionale. Allora anche lì siamo andati a controllare sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, del Ministero degli Esteri, e anche lì si gioca un po' con le parole, no? Pier Giorgio Reggio. Sì, si gioca un po' con le parole proprio per quello che dicevamo prima. C'è un consiglio a non raggiungere o comunque a spostare i viaggi sulla destinazione, ma soltanto se riguardano la capitale Malé e le isole non coperte da risorte turistici. Quindi fondamentalmente una vacanza alle Maldive per natura è una vacanza prevista con un atterraggio su Malé, quindi l'aeroporto della capitale, e un trasferimento immediato in un resort turistico. Lui vede invece come parla con cognizione di causa, ci è andato qualche volta. Ho avuto la fortuna di andarci, ma per lavoro. Devo dire che è una destinazione paradisiaca, quindi spero che veramente la situazione rientri anche in maniera abbastanza rapida, anche perché storicamente le Maldive sono sempre state un paese che non ha mai dato adito a preoccupazioni di questo tipo, molto moderati, una popolazione veramente ospitale, e quindi mi auguro che appunto questa tensione possa rientrare in tempi rapidi. Certo. Anche su questo eviterei, come dire, facili allarmismi, attenderei informazioni più dettagliate. Avvocato Gagliardi, un commento se vuole sul tema Maldive, ma le vorrei chiedere anche un giudizio, un commento sul caso dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima. Deve partire per Malta, quindi tutt'altra destinazione, ma in ogni caso adesso un po' la fobia da viaggio, qualora si dovesse scatenare, insomma, alla luce di tutte queste notizie, e se una persona non si sentisse sicura proprio di volare in questo momento, che cosa ci consiglia di fare? Ma allora, sicuramente non ci sono problemi per un viaggio a Malta e non c'è nessun diritto a chiedere un rimborso. In generale il tema del terrorismo se ne parla da anni, e i rischi potrebbero esserci teoricamente su qualsiasi volo, ma anche prendendo un pullman o un treno, quindi il rischio esiste in questo sì momento. Poi al momento è appena successo il fatto, per cui si diffonde la notizia, si diffondono allarmismi ingiustificabili. Consigli da dare a chi è in procinto di partire, o controllare, come nel caso delle Maldive, cosa dice effettivamente la comunicazione sul sito Viaggiare Sicuri, cioè è sconsigliato uscire fuori dai villaggi, però per quanto sostiene la Farnesina non ci sono rischi se si rimane all'interno del villaggio, per cui anche in quel caso direi che, salvo delle ipotesi strane di pacchetti fuori da villaggi, che immagino che non ci siano, non c'è la possibilità di ottenere l'annullamento del pacchetto. Un altro consiglio è quello di verificare le polizze, stipulate. Esatto, parentesi che vorrò fare adesso nel prossimo passaggio con Pier Giorgio Reggio, proprio il tema delle coperture assicurative. Sì. E poi se gli ascoltatori necessitano di informazioni possono rivolgersi all'Associazione dei Consumatori. Noi abbiamo una mail che è ssturista@movimentoconsumatori.it e possiamo verificare caso per caso qual è la situazione. Certo, allora intanto volevo anche sentire Nicola da Latina, perché qua ormai apriamo tutta l'area del Nord Africa. Ci state raccontando le destinazioni dei vostri viaggi futuri, nel breve e nel lungo periodo. Noi moriamo di invidia perché saremo sempre qui. Nicola da Latina, benvenuto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, grazie di tutto. Sì. No, volevo chiedere Marrakech come destinazione. Ho controllato sul sito della Farnesina ed è tranquilla. E speriamo che lo rimanga, sì. Naturalmente, Nicola, e che lei si possa completamente godere questo viaggio. Quando vuole andare? Dal 1 al 5 dicembre. Già ho prenotato, quindi... Ecco qua. Allora, Pier Giorgio, vicino a San Nicola, perché poi San Nicola è il 6, Nicola, noi lo sappiamo bene, quindi prima del suo onomastico. Si è fatto questo regalo di onomastico, Pier Giorgio Reggio. Non posso che confermare, nel senso che non esistono motivazioni che possano creare timore nella vacanza del nostro consumatore, quindi non posso che augurare una buona vacanza. Certo. Insomma, il timore è sempre quello di associare qualunque paese identificato come mondo arabo ha un problema di sicurezza. Non è così, questo purtroppo è un tema che noi nelle nostre agenzie di viaggio affrontiamo quotidianamente. Bisogna avere la conoscenza di quali sono le aree geografiche a rischio, e su questo è importante che i consulenti di viaggio diano corrette informazioni. Allora, il ruolo dei consulenti di viaggio per dare corrette informazioni. Il tema della copertura assicurativa, Reggio, come la affrontate? Perché abbiamo visto che mediamente si invita a fare una polizza, anche se molti siamo sempre un po' sospettosi nei confronti delle coperture, perché guarda caso, sappiamo bene, questo è il motivo anche per cui sono largamente assicurati su tutto gli italiani, quando poi hai bisogno scatta sempre quella clausola che ti esclude da ogni indennizzo, no Nicoletta? Ne parlavamo proprio a microfoni spenti. Allora, per esperienza diretta, a seconda del viaggio che si fa, ci spiega un po' come dovremmo orientare la chiacchierata con il nostro operatore di viaggio, a meno che naturalmente non si faccia tutto su internet, e qui so che potremmo dare un'altra rosa di suggerimenti, ma insomma, avendo l'interlocutore fisico davanti a noi, infatti, che cosa ci dobbiamo aspettare? Il tema è proprio questo. Io do anche un esempio proprio personale per quello che riguarda l'azienda che rappresento, perché noi all'interno di Blue Team facciamo delle attività di training veramente esasperate verso i nostri consulenti di viaggio sul mondo assicurativo, che agli occhi di molti potrebbe essere un mondo completamente estraneo a chi invece dovrebbe vendere viaggi, quindi sogni e destinazioni da sogno. Però il mondo assicurativo per noi è fondamentale, soprattutto per quelle aree geografiche come quelle che stiamo appunto per le quali stiamo discutendo oggi. L'altra variabile assolutamente importante da tenere in considerazione è il cosiddetto fai da te, semplicemente per il tema della responsabilità dell'organizzatore. Se io acquisto un volo, io consumatore acquisto un volo, poi separatamente un trasferimento, poi separatamente un soggiorno, io ho tre contratti di viaggio separati, ognuno con delle dinamiche differenti. Se io acquisto un pacchetto turistico che è appunto costituito da più servizi, certo, ho un organizzatore a cui fare riferimento e che risponderà secondo naturalmente quella che è la normativa vigente in caso di annullamento, di responsabilità, e quindi sono più tutelato. Sono assolutamente più tutelato perché ho un organizzatore a cui fare riferimento e un intermediario che in questo caso è il consulente di viaggio, quindi direi che la tutela è assolutamente massima rispetto a quello che può avere un consumatore nell'organizzazione fai da te. Fabrizio dalla provincia di Cuneo, lei viaggia molto? Sì, io viaggio molto per lavoro, purtroppo quasi solo per lavoro, e devo dire che anche in questo momento sto tornando dall'aeroporto e devo dire che secondo me effettivamente non è proprio il caso di trovarci in queste situazioni di panico generalizzato, cioè gli aeroporti sono strapieni di gente che parte per tutte le destinazioni. I controlli sono assolutamente molto serrati. Io francamente che viaggio praticamente tutte le settimane verso ogni destinazione. Lei prende l'aereo come molte persone prendono la metropolitana, no? Sì, insomma, sì, quasi, ecco, la sua metropolitana è l'aereo. Le dirò Nord Africa, Nord Europa, Asia, certo, vado veramente praticamente ovunque. e onestamente non ho mai avuto la sensazione di vivere una situazione, diciamo, di non sicurezza o simile. No, quindi... ma infatti guardi Fabrizio, noi la ringraziamo per questo messaggio, abbiamo voluto stemperare un po' i toni anche noi. Detto questo, non ci dobbiamo dimenticare il presupposto della trasmissione: più di 200 morti in questo aereo che è stato trascinato giù, e quindi poi quella situazione c'è stata di fatto, poi attribuita alla bomba, non sappiamo ancora bene l'esito di questa inchiesta. Ho usato questa espressione all'inizio, me l'hanno contestata in molti, ma in realtà pare che l'ordigno ci sia stato, tanto che adesso anche tutte le persone pronte ad essere rimpatriate dovevano utilizzare il bagaglio a mano e tutti gli altri metterli appunto in stiva, nessuno poteva viaggiare con la valigia a seguito. Quindi non dimentichiamoci di tutti gli aspetti in gioco, senza naturalmente drammatizzare. Non ne riusciamo a sentire Massimo dalla provincia di Lecce, che voleva dirci, piuttosto che andare nei paesi a rischio, Nicoletta, esattamente il messaggio che tu davi per tutta la trasmissione. Se uno non si sente perché ha il timore, paura, proprio all'origine non prenotate un viaggio in Egitto in zone potenzialmente a rischio, rimanete in Italia, dice Massimo. E Marco da Roma anche in questo caso dice: attenzione a non farci intimidire tutti. Grazie per essere stati con noi, Pier Giorgio Reggi. Il suo prossimo viaggio bellissimo, ci faccia morire di invidia. Grazie a tutti voi. Io mi sto per imbarcare su una nave di crociera, ma per un evento, quindi lo chiamiamo viaggio di lavoro, diciamo. Pensa te. Invece il nostro viaggio di lavoro torna di nuovo qua. Avvocato Gagliardi, grazie anche a lei, devo chiudere velocemente. Grazie per la sua collaborazione. A lunedì, buon weekend a tutti.